prima vista, pura magia. Ti vedo qui, melodia, battito forte del mio cuore, ballando insieme solo noi due, amor. Musica, portami da te, più vicino fammi vedere. Ritmo pulsa, non posso più resistere a quello che sei tu. Siamo poi. Musica, portami da te, più vicino fammi vedere. Ritmo pulsa, non posso più resistere a quello che sei tu. Esta noche.